Ciao, mi chiamo Irene, ho 18 anni e frequento l'ultimo anno del liceo classico. Attualmente sono referente del presidio Montalbano del liceo Viesseo d'Imperia e insieme parleremo di musica contro le mafie e in generale di come il mondo della musica possa rappresentare un impegno attivo contro il mondo della criminalità organizzata. Oggi parleremo di musica contro le mafie e in generale di come la musica si ponga di fronte alla tematica della criminalità organizzata. Allora, iniziamo subito. Musica contro le mafie è un'associazione che fa parte della rete di Libera e si propone di portare in primo piano, attraverso il meraviglioso mezzo della musica, tematiche riguardanti mafia e corruzione. E ha come intento quello di predisporre a una mentalità propositiva verso la giustizia sociale e la verità. L'associazione propone periodicamente moltissimi eventi musicali e culturali, ma sicuramente quello più famoso, di cui magari avete già sentito parlare, è il contest musicale che porta lo stesso nome dell'associazione e si svolge ogni anno dal 2010. È un'occasione per i giovani, e non solo, artisti emergenti di tutti i generi per farsi conoscere. Ogni anno si ascoltano sempre canzoni diversissime tra loro, eppure hanno tutte la stessa potenza comunicativa ed emotiva. Vengono premiati gli artisti che diffondono messaggi positivi, che tengono viva la memoria trasformandola in strumento di impegno e lotta, ma soprattutto che contribuiscono a diffondere un modello culturale che sia ad esempio per contrastare il sistema mafioso. Se andate sul sito web potrete trovare tutte le canzoni vincitrici di ogni anno. Non posso che augurarvi buon ascolto. Ma musica contro le mafie fa molto altro. Seguendo una bellissima frase di Don Luigi Ciotti, cioè la conoscenza è la via maestra del cambiamento, l'associazione ha organizzato e organizza tuttora corsi di informazione e conoscenza per noi ragazzi. E non c'è cosa migliore che partire dalla scuola e dall'istruzione, perché lo studio e la conoscenza sono i nemici giurati della cultura mafiosa. Se invece siete dei diamanti dello schermo, Musica contro le mafie ha creato un documentario, ovvero Musica contro le mafie, l'alternativa, che vede il contributo di tantissimi artisti italiani, ma anche tante figure di rilievo per quanto riguarda la sfera culturale. Vedrete Bruno Risas, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Rocco Mangiardi, Don Luigi Ciotti, tantissimi. La lista è nutritissima. Inoltre l'associazione ha anche pubblicato due libri, ovvero La musica scrive le parole che si fanno sentire e Change Your Step, 100 artisti, le parole del cambiamento. Entrambi raccolgono il contributo di tantissimi artisti che, aiutati dalla loro arte, ispirano tutti noi a lottare nel nostro piccolo per la giustizia e la libertà. Per finire il nostro percorso, voglio parlarvi di 5 giorni di musica contro le mafie. È una manifestazione che si tiene ogni anno a Cosenza nel mese di dicembre. Non troverete solo concerti di musica, ma anche tantissimi incontri, workshop, proiezioni, tantissimo. Quindi, se durante un viaggio o una vacanza sarete di passaggio di lì, magari potrete farci un salto. Siamo qui insieme e abbiamo parlato di musica contro le mafie. Quindi, già che ci siamo, perché non terminiamo il nostro viaggio insieme esplorando le canzoni contro la mafia, composte da artisti italiani? Ovviamente ce ne sono moltissime da cui potremo attingere per sviluppare il nostro discorso, ma qua ne elencherò solo alcune che mi stanno particolarmente a cuore. 1. I 100 passi dei Modena City Ramblers. È una canzone bellissima che fa da colonna sonora all'omonimo film di Marco Tullio Giordana. Tutta la potenza della figura di Peppino Impastato è racchiusa in un brano. Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai cosa. contare. Dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 2. L'appello di Daniele Silvestri. La canzone è dedicata al magistrato Paolo Borsellino e pone la questione vitale del mantenere viva la memoria e la ricerca della verità. Se posso, aggiungerei che lui non è mai stato rosso, anzi di rosso conosceva solo quello che canticchiava e quel vecchio ritornello. Che bello! Due amici, una chitarra e uno spinello. Questo è un appello, io sto cercando in giro mio fratello, scomparso all'improvviso a fine luglio, mezzo bordello, e con addosso sembrerebbe solo un piccolo borsello, ma piccolo, piccolo, piccolo, così. Ma se penso al tempo che è passato e quanto ancora passerà, no, non credo proprio che sia giusto e che sia giusta questa vita umiltà, perché si sa, si sa. Si sa che la faccenda è grossa e per di più c'era un'agenda rossa e non si trova più. Pensa di Fabrizio Moro. Famosa, famosissima direi, questo brano che ha portato Moro a vincere nel 2007 il Festival di Sanremo nella sezione giovani. Qua sentiamo ripeterci lo stesso insegnamento tanto caro a Don Luigi Ciotti, di cui abbiamo parlato prima. L'istruzione, di conseguenza riflettere su ciò che facciamo e le conseguenze che ne possono derivare, è un tesoro prezioso che dobbiamo piantare e coltivare dentro di noi. Semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali, come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Sai, hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Pensa. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Svuoto il bicchiere di Giro. Canzone vincitrice del 2018 di Musica contro le mafie, e anche questa è dedicata a Paolo Borsellino. Mm. Ciao papà, come stai? Abbiamo saputo dell'incidente in Vespa, ma perché sei scappato? Perché volevi respirare un po' di libertà che questa vita non ti ha mai concesso. Ci scherzi su e ci chiedi se la Vespa si è rotta, ma nei tuoi occhi io ci vedo sempre tanta rabbia. Rabbia perché qui c'è sempre tanto da cambiare. Il silenzio, le persone, serve il sole, non il temporale. Ti capisco papà, ma tu sei fatto un po' così. Ci prendi gusto a rischiare quando in palio c'è l'amore per la tua città, che troppe volte ti ha voltato le spalle. Quando con Giovanni tu cercavi solo verità, ma la verità è una parola forse troppo grande, grande quanto questo mare a cui hai giurato fedeltà, e sono certa riuscirai a versarlo in un bicchiere. Corri a 200 all'ora, superando il vento. Cuore di Jovanotti, è canzone scritta di getto nel 1992, subito dopo la morte di Falcone, dipinge il ritratto di un'Italia omertosa, in cui l'unica speranza è rappresentata dai giovani che gridano e denunciano il male che da tanto affligge il nostro paese. Migliaia di ragazzi in piazza Palermo, un saluto alla bara del giudice Falcone, hanno bisogno di una risposta. Hanno bisogno di protezione, i ragazzi sono stanchi dei boss al potere, i ragazzi non possono stare a vedere la terra sulla quale crescerà il loro frutto, bruciate, ogni loro ideale distrutto. I ragazzi denunciano chiunque acconsenta col proprio silenzio a un'azione violenta, i ragazzi sono stanchi e sono nervosi, in nome di Dio affanculo ai mafiosi. I ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare senza essere costretto per forza a rubare. Per creare una via per gli uomini onesti, per dare ai bambini valori robusti che non crollino appena si arriva ai 18, accorgendosi che questo mondo è corrotto. I ragazzi non credono ad una parola di quello che oggi ci insegnano a scuola, i ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta, ma fatti, giustizia, rigore morale da parte di chi calza questo stivale. I ragazzi hanno il tempo che li tiene in ostaggio, ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio, perché non ci sia un'altra strage di maggio. Per riuscire ci vuole cultura e coraggio, cultura di pace, coraggio di guerra, il coraggio di vivere su questa terra e di vincere qui questa nostra battaglia, perché quando nel mondo si parli d'Italia non si dica soltanto la mafia e i mafiosi, perché oggi è per questo che siamo famosi, ma l'Italia è anche un'altra e la gente lo grida, i ragazzi sono pronti per vincere la sfida. E così abbiamo terminato questa puntata di Pillole di Libera, dedicata alla musica e alla sua lotta alla criminalità organizzata. Grazie per l'attenzione e mi raccomando, buon ascolto!